La zanzara con Alessio Maurizi. 18:07, buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati alla Zanzara in questi giorni al microfono. Alessio Maurizi con in redazione Laura Marchesi e Marco Lombardo e in regia questa sera Roberto Scaltritti. Cominciamo subito 800 24 00 24 per intervenire come ogni sera a commentare le notizie della giornata. 349 238 6666 se volete scriverci un sms. La Zanzara at radio24.it se invece volete scriverci una mail. Cominciamo subito con i titoli dei TG. Sky TG24. Svanisce l'effetto Obama dopo l'accordo che ha evitato il default. E i mercati rispondono male, giù l'Europa, tonfo a Piazza Affari. Berlusconi in aula mercoledì pomeriggio per l'informativa sulla crisi economica. Giovedì imprenditori e sindacati incontrano il governo, poi l'opposizione. Lampedusa soccorso, un barcone di migranti nella stiva, 25 morti soffocati. A Bari immigrati in rivolta, invadono binari e strade, molti feriti. Siria riprende il bombardamento, 4 morti, Assad approva la carneficina. Andrea Zappia, nuovo amministratore delegato di Sky Italia, prende il posto di Tom Mockridge. Tutti al mare. Armare a mostrare le ghiappe, ghiare. Tutti al mare, tutti al mare. Invece no, quest'anno contrordine, tutti al campus delle riforme. L'idea l'ha avuta il ministro Calderoli, che ha detto: quest'estate niente vacanze per parlamentari e governo, ci troviamo tutti a fare un bel campus estivo e a vedere cosa fare per rilanciare lo sviluppo, la crescita. In Italia sapete che le parti sociali hanno fatto un appello al governo a intervenire, a darsi una mossa. Tutti al campus, dunque. Sentiamolo Calderoli a fare questa proposta. Accanto a questo regime di austerità è necessario anche il rilancio dell'economia e quindi ho proposto di sfruttare il mese di agosto, perché le migliori teste pensanti, sia che vengano dalla politica che sia dal mondo associativo, si riunissero per formulare una serie di proposte che poi si possano portare già all'inizio di settembre in Parlamento, proprio per dare delle risposte immediate a un problema generale. A dire la verità, però sembra, ecco, che i fatti siano andati un po' oltre, perché insomma oggi la borsa è andata giù pesantemente, non è che ci sia da aspettare settembre forse, Calderoli, anzi io dico forse era il momento di mettere a frutto i campus dell'anno scorso. Adesso è un po' come dire a uno malato di polmonite: copriti bene le spalle, bisognava pensarci prima, adesso ci vogliono le iniezioni, punturoni di antibiotici, l'economia italiana ha bisogno di questo, tant'è vero che si parla di un incontro con le parti sociali, interventi da parte del governo. Lo stesso Calderoli, quando ha lanciato questa proposta, aveva le idee anche poco chiare su quello che sarebbe stato l'intervento di Berlusconi alla Camera. Lui diceva due giorni fa, ieri non ricordo esattamente, prima che Berlusconi dicesse altro, diceva: Berlusconi andrà a parlare della crisi però dopo il campus, dopo. Io credo che l'argomento economico lo si sia affrontato alle Camere proprio recentemente, affrontando la manovra. Sarebbe poco credibile il venire a riferire oggi, quando si propone un tavolo proprio per raccogliere tutte le idee e i progetti. Io credo che si debba prima fare questo campus, questo tavolo, e raccogliere tutte le proposte del mondo politico e del mondo... Insomma, questa era stamattina Calderoli, però ripeto, poi le cose sono andate avanti, Berlusconi stesso ha detto no, ha detto Cicchitto. Sarò alla Camera e al Senato a parlare proprio in vista di questo incontro con le parti sociali, quindi il campus, tutti al campus, forse sarà per un'altra estate, non lo so. Ieri però l'idea di Calderoli era piaciuta un po' a tutti, un coro di sì, andiamo al campus. Sentite il ministro Romani. Il presidente americano è stato obbligato a fare una lunga e per certi versi tormentata trattativa al Senato, dove non ha la maggioranza, con repubblicani e con democratici. Devo dire che in Italia, nel nostro paese, che tanto viene additato spesso come un paese di instabilità politica, in 6 giorni il nostro paese ha approvato una manovra molto complessa che porta alla parità di bilancio del 2014. Devo dare atto all'opposizione di un alto senso di responsabilità in quei giorni, devo dare atto al sistema paese Italia che ha dato una risposta ai mercati. Romani, il ministro Romani dice: noi in 6 giorni, l'America ci ha messo mesi a trovare un accordo, il merito è dell'opposizione, dice giustamente Romani, perché in America l'opposizione repubblicana ha fatto un po' di storie prima di far chiudere l'accordo a Obama. Ma sentiamo Romani che si dice disponibile a fare il campus con Calderoli. Adesso non so se valga addirittura la pena di passare tutto agosto, ma io sono solamente disponibile, come dice Calderoli, per confrontarsi con le parti sociali. Io ho l'impressione che dobbiamo occuparci delle cose serie. Insomma, Romani dice sono disponibile, andiamo a fare il campus, poi dice insomma, già comincia qualche distinguo, non so se servirà proprio tutto agosto, magari qualche giorno al mare fateci andare, però insomma d'accordo, lavoriamoci su questa idea, ripeto sempre però a bocce ferme prima che l'evoluzione dei fatti, con la borsa che cade e l'annuncio di Berlusconi che sarà alla Camera, ci sarà un incontro con le parti sociali, prima di tutto questo si parlava del campus. E la caccia era partita all'abbronzato, all'abbronzatura. Chi è che si è già permesso di andare in ferie e di abbronzarsi? Sentiamo ancora Romani. Non siamo assolutamente in ferie e mi pare che nessuno di noi possa vantare l'abbronzatura che può vantare il Presidente della Camera in queste settimane. E quindi siamo tutti al lavoro e nessuno di noi ha intenzione di andare in ferie. Insomma, che sia il campus estivo per le riforme di Calderoli, che ricorda un po' quello del 2003, il campus dei saggi, l'agosto dei saggi, così si chiamò in quell'anno l'incontro che avvenne a Lorenzago. Sul tavolo c'erano allora le riforme costituzionali, o che sia il campus di Calderoli, o che sia il Parlamento o il governo con le parti sociali, insomma, questa sarà sicuramente un'estate, almeno così crediamo, di lavoro per i parlamentari e soprattutto per il governo alle prese con una situazione economica non facile. Altro tema, alleanze, parliamo di alleanze futuribili, di politica, perché si continua a dire prima o poi ci saranno comunque le elezioni. E allora cosa farà il centrosinistra? Sentiamo, divisi più di così non potrebbero esserlo, Franceschini e Vendola. Franceschini, in tema di alleanze, dice: alleiamoci con tutti, anche con Fini. Quando ci dicono a noi del PD come fate a tornare con la sinistra radicale che ha mostrato che sulla politica estera o sulle altre cose non ha cultura di governo? Come fate ad andare con Casini che ha in mente il bipolarismo, anziché il bipolarismo, il terzo polo e le proporzionali anziché il maggioritario, o con Fini che viene da una storia di destra? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Di fronte alla gravità e ai rischi che ha il paese, tutte le forze che hanno storie diverse stanno insieme in una legislatura costituente. La legislatura costituente, l'abbiamo sentito dire più volte, è curioso Franceschini che dice chi se ne frega se Fini è di destra o era di destra, non si sa più bene, insomma, comunque l'importante è fare un'alleanza, una santa alleanza, però Vendola non è d'accordo assolutamente, l'altro è più probabile forse alleato del Partito Democratico. Vendola. Il mio dissenso è totale, per molte ragioni. Sul piano, diciamo, della crisi del berlusconismo, noi, se non diciamo che c'è un'alternativa chiara, rischiamo di rendere torbido il quadro. Io capisco quello che dice Dario, ma è una prova di forza che serve soltanto a nascondere la nostra debolezza. E però Franceschini, di fronte al dissenso di Vendola, replica: sì, però d'accordo, ma è una questione di numeri. Per esempio, tu senza l'UDC non saresti andato da nessuna parte. Sentiamo. Questa è la missione che abbiamo, è il dovere che abbiamo. Una legislatura costituente, di transizione. Poi ci sono anche delle ragioni numeriche, e lo sa bene Nicchi. Non è che è tutto secondario, insomma, se in Puglia l'UDC non fosse andata con la destra, avrebbe vinto il centrodestra la regione Puglia. No, non sta scritto, hai ragione. Scusa, hai ragione, non sta scritto nel sommando di numeri. E questo insomma era un po' il dibattito nel centro-sinistra sul tema alleanze. 18 e 17 minuti, adesso abbiamo il traffico, rientriamo tra pochissimo, 800 24 00 24. E allora, come detto, tra pochissimo cominciamo a sentire i vostri interventi e a commentare i fatti di giornata. 800 24 00 24. E allora sentiamola la sintesi della giornata TG2. Delude l'intesa sul debito americano, giù Wall Street e tutti i mercati europei. Affonda Milano che perde quasi il 4%, male anche i titoli di Stato. Berlusconi mercoledì riferirà in Parlamento sulla situazione economica, giovedì mattina l'incontro con le parti sociali, nel pomeriggio sindacati e imprese vedranno l'opposizione. A Bari, rivolta degli immigrati in attesa del diritto d'asilo, armati di spranghe hanno bloccato strade e ferrovie, scontri con le forze dell'ordine, una trentina i feriti. Vasco Rossi lascia la clinica di Villalba dove era ricoverato per una costola rotta e torna a casa. Sto molto meglio, dice, rassicurando i fan. Sempre pronto, aggiunge, a tornare sul palco. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare tutti al mare o tutti al campus delle riforme proposto da Calderoli, oppure tutti mercoledì in Parlamento per ascoltare Berlusconi che riferirà sulla crisi, oppure tutti giovedì all'incontro, al super incontro, ricordate i tavoli, le parti sociali, i mega accordi, si va forse in questa direzione, governo, opposizioni, sindacati, Confindustria, tutti coinvolti per trovare un rimedio alla situazione economica. 800 24 00 24, cominciamo a sentire qualche ascoltatore. Allora cominciamo da Pier Antonio che chiama da Vicenza. Buonasera. Buonasera, buonasera intanto e buona serata a tutti gli ascoltatori. Ma guardi, in merito al discorso di Calderoli, a me mi pare una trovata un po' estemporanea, nel senso che dovevamo aspettare agosto per pensare che l'economia sta andando male, mi pare proprio di no, visto che se ne parla da parecchi mesi. Il governo, d'altra parte, fino a qualche tempo fa non ha fatto altro che pensare ai processi lunghi, ai processi brevi, lodo di qua, lodo di là, e adesso scopre che c'è l'economia che va male. Cioè, voglio dire, è da parecchi mesi che bisognava intervenire, non bisognava aspettare agosto, ormai l'economia sta veramente andando male. Le famiglie non ce la fanno più e quindi mi pare insomma un po' così, che poi saranno magari tante parole e alla fine bisognerà vedere i fatti. Un'ultima cosa, per quanto riguarda il discorso di Borghezio, oh, mi pare che quando ha fatto quelle sue giustificazioni erano giustificazioni che però non convincevano. Borghezio ha fatto tante altre uscite non belle, tante gaffe, e ha continuato a perseverare. Speriamo che questa sia l'ultima. L'ascolto per... Grazie, grazie. Adesso tra poco gireremo anche le sue argomentazioni agli altri ascoltatori. 800 24 00 24. Adesso però il primo ospite della serata, perché la crisi economica ha tante facce. Una, per esempio, riguarda una situazione particolare di un ennesimo stabilimento che ha in qualche modo ventilato una dismissione, una chiusura. Lo stabilimento Iris Bus in provincia di Avellino. Piuttosto che chiudere la fabbrica, occupiamola. Una frase però che non è stata detta da un operaio qualsiasi, con tutto il rispetto naturalmente per gli operai di questa fabbrica e per tutti gli altri, e nemmeno da un sindacalista, insomma normalmente frasi che vengono dette in quelle circostanze. Una frase detta invece dall'europarlamentare dell'UDC Ciriaco De Mita. Buonasera. Buonasera. De Mita, è diventato comunista anche lei? Vuole occupare la fabbrica come si faceva negli anni 70? Che succede dopo tutti questi anni di militanza democristiana? Perché questa voglia di occupare la fabbrica Fiat? Purtroppo la comunicazione è sempre la semplificazione. E anziché, come dire, rifinire un'opinione, una riflessione, poi si conclude in maniera molto frettolosa. Anche se ci eravamo illusi che la frezza fosse la comunicazione semplice. Però non dia tutta la colpa sempre. Mi scusi, Demita, non dia la colpa però sempre ai giornalisti, perché forse qualcuno avrà travisato. Con i giornali. Perché è stato anche lei a dire, a tirare in ballo Berlinguer, a dire non voglio fare come Berlinguer, però no, ecco, quindi il paragone l'ha fatto anche lei. Però ci spieghi no, che succede. Come ho letto da qualche parte, come Berlinguer, ho detto no, perché Berlinguer occupava le aziende per la lotta di classe. Io ho fatto un ragionamento così: in provincia di Avellino c'è questo stabilimento, che è lo solo stabilimento in Italia che produce pullman, è efficiente, l'azienda ha investito per mantenerlo in condizioni ottimali fino a quest'anno, le maestranze sono eccellenti, non hanno mai utilizzato la cassa integrazione se non in misura limitata, all'improvviso si decide di darlo ad un imprenditore improvvisato che ha costituito una società con un capitale di qualche soldo, e praticamente significa chiudere. Se vuole la mia opinione, la forzatura che io ho fatto è rivolta più al sindacato che all'impresa, perché è convinzione che una presenza del sindacato nella discussione con l'impresa per mantenere in vita lo stabilimento non ci sia stata. Dalle discussioni fatte, il rappresentante dell'azienda, siccome l'azienda produce pullman e la domanda è pubblica, perché i pullman non li acquistano i privati, e nei bilanci di questi anni non è stata stanziata neppure una lira. E trovo strano che il sindacato rispetta la chiusura di uno stabilimento utile, valido, non è come Termini Imerese, dove la produzione era tutta passiva, qua la produzione è attiva. Ho posto il problema di considerare questa circostanza. L'occupazione della fabbrica è l'apertura di un dialogo più che la contestazione di un sistema. Non ci trovo niente di stravagante. Senta, ma questa cosa delle commesse è importante, commesse pubbliche, perché la fabbrica produce autobus, però forse le commesse non sono molte. No. Per questo avevamo letto sui giornali. Il patrimonio di trasporto pubblico dovrebbe essere rinnovato al 40%, perché ci sono... Dovrebbe però, e magari se... Ecco, c'è bisogno di fondi. L'unico problema è che c'è bisogno di fondi. Perché sa che... Qualcuno ha posto questa domanda. Sì. E io ho risposto che il problema non è stanziare i fondi oggi per ieri. Il problema è prendere in considerazione che quante se. Dobbiamo uscire dalla stretta. Perché, come dire, poi si legge la battuta dell'occupazione, ma non si legge l'altra battuta del marchese Pepe, che avendo abituati i cavalli a non mangiare, quando morirono si lamentava che, siccome si erano abituati a non mangiare, erano morti. Io non credo che il problema della crisi economica del nostro paese sia risolvibile solo con la stretta finanziaria. Senta, però, che, sì. Come dire, questa considerazione comincia, ormai è al centro della riflessione. Comincia a farsi strada, lei dice. Però ecco, una cosa credo che gli italiani, che pure chiedono lavoro, sviluppo, occupazione e un bel salario, insomma alla fine del mese naturalmente sì, però credo che non vogliano più, e che questo forse anche la crisi ha aiutato a capirlo, cioè l'assistenzialismo, no? Le fabbriche, perché uno pensa, magari non conoscendo questa realtà, una fabbrica che vive sulle commesse pubbliche, magari arriva De Mita che fa una richiesta, arriva un finanziamento, lui che è europarlamentare, no, se lo può permettere, mai permesso di fare una, e questo però ecco. Se fosse così, insomma, il discorso è riconvertire. Chi si è battuto contro le strutture che assorbono risorse e non producono reddito sono io, ma non per principi astratti, per principi concreti, perché si allunga la morte, ma non si risolve il problema. Qua invece ci troviamo di fronte ad un'azienda efficiente con una domanda, è pubblica perché i pullman li acquistano gli enti locali, sì. Non è pubblica perché è assistenziale, è la sola fabbrica che esiste in Italia, chiudendola, facciamo questa ipotesi, quando questa fabbrica viene chiusa, siccome i pullman debbono essere comprati, da qualche parte li compreranno. Cioè lei dice, ci vorrebbe un accordo che consenta a questa fabbrica di sopravvivere a un momento difficile, poi quando magari l'economia ripartirà, i comuni avranno... Non di sopravvivere, vivere perché la fabbrica è in condizione di vivere, non di sopravvivere. Però se mancano le commesse perché i comuni hanno le casse vuote, sì. Ha capito, cioè se mancano le commesse pubbliche perché i comuni hanno le casse vuote, non hanno più soldi da spendere. Se mancano le commesse pubbliche, l'idea del pubblico che, come dire, investe in maniera non utile e No, pubblica è un aggettivo in questo caso che serve solo a definire il fatto che le aziende sono a partecipazione pubblica, alcune saranno anche state privatizzate nel frattempo. Sono a partecipazione pubblica, l'azienda è della Fiat, quindi non è a partecipazione pubblica. No, le aziende dei trasporti locali che dovrebbero... Come era una volta il trasporto. Sì, il trasporto era statale e chi utilizzava il trasporto su ferro erano i cittadini. No, non fare i treni era sbagliato. O sarebbe sbagliato. Ma mi scusi, De Mita, onorevole De Mita, quello che non è chiaro, mi scusi, vediamo se ci capiamo. Non è che la fabbrica io dico che sia pubblica, dico che chi compra gli autobus sono aziende pubbliche, quindi le commesse sono pubbliche. Però i comuni hanno le casse vuote. Appunto dico, ma i comuni che hanno le casse vuote adesso non possono acquistare evidentemente altri autobus. E questa è la ragione. È questo il problema. Nella finanziaria, negli ultimi anni, gli stanziamenti fatti per l'ammodernamento del parco di trasporto è andato degradando fino a quasi a cancellarlo, e non è che cancellando l'investimento si risolve il problema. Perché poi i pullman servono, da qualche parte bisogna comprarli. E io trovo aberrante chiudere una struttura che produce pullman in Italia, che poi quando sarà, siccome all'infinito questa cosa, no, a meno che non stabiliamo che si vada a piedi, ecco, questa sarebbe una misura che io condivido. Tutti a piedi e pullman non se ne producono. Facciamo una pausa, De Mita, resti un attimo con noi, che poi vogliamo anche chiederle come si difende dal fatto di essere definito uno degli europarlamentari più assenteisti, però abbiamo la borsa, tra un attimo. Sono contento che abbiano eletto a Strasburgo De Mita, io lo devo dire finalmente, ragazzi, ma era tanto che non sentivo più parlare di De Mita. Ma guarda, sono due cose che gli italiani non sentivano più nominare da tanti anni: i gettoni del telefono e De Mita. Se alle prossime europee leggono anche i gettoni del telefono, posso morire contento. Onorevole De Mita, questo era Maurizio Crozza in una battuta che la riguardava quando è stato eletto al Parlamento europeo. Lei, come i gettoni, se ricorda i gettoni, non si offenda, perché in fondo è anche un po' un complimento, no? Che ha fatto Crozza. Lo conosce Crozza? Sì. Lo segue? Sì. L'aveva sentita questa? Immagino di sì. No, questa non seguo. Non si... Crozza è un po' come l'informazione dei giornali, basta leggere un titolo e uno capisce le cose che si dicono. Prova a riflettere, noi non facciamo l'analisi delle condizioni, delle questioni, ipotizziamo le soluzioni possibili, abbiamo in testa un giudizio, è un po' come l'inchiesta dei magistrati. Si ha in testa un'idea, un teorema, e poi si trova un testo che legittima l'idea. Questa... No, dico così, Crozza. L'idea che è stata... È una tecnica della comicità sicuramente, ma era solo per ridere. No, dico, però... l'idea che è stata venduta, che il rinnovamento fosse legato all'età, credo che sotto gli occhi di tutti ha dimostrato che questo è un criterio sbagliato. È vero, però, tutto anche qua. Che insomma, lei è un politico di lungo corso e sicuramente la battuta da questo punto di vista la strappa, no? O no? Cioè, non è che uno può far finta di nulla. Lei quando è che ha cominciato a far politica? Quando sono nato. Cioè, diciamo così, quando è entrato nella prima assemblea parlamentare, credo che fosse... Nel 63. Insomma, qualche annetto è passato. Vabbè, ma insomma, era solo una battuta. Non... No, ma io mica mi arrabbio. Però questo ci porta all'Europarlamento ed è una cosina che... Però devo dire, io cito dei dati che la riguardano e lei certo non è tra i più presenti. La percentuale è del 65%, però... Come? La percentuale di presenza credo nel 2011 viene data al 65%, che la mette un po' in basso tra i parlamentari, gli europarlamentari italiani. Io le do subito la spiegazione. Sì. Se, come dire, fossi assente, là c'è una sanzione pecuniaria seria e io non ho penalizzazione pecuniaria. Nessuna solo multa. Questa circostanza, che i mezzi di trasporto dall'Italia a Strasburgo sono di una difficoltà rara. Normalmente bisogna prendere due voli, c'è un solo volo diretto da Roma, che rientra il mercoledì, parte il lunedì e rientra il mercoledì, e la seduta, che poi diventa oggetto di statistica, si chiude il giovedì a mezzogiorno. E io salto, perché se mi fermassi fino a mezzogiorno sarei costretto per rientrare a fare un giro per Parigi e poi arrivare a Roma. Ma scusi, e qua sì, ma ce l'avranno anche gli altri questo problema, no? O ce l'avranno anche gli altri europarlamentari questo problema, che però ma hanno no, delle percentuali più alte? Non comporta una riduzione dell'impegno. Quindi comunque lei ammette che ci sia un po'... Non siamo militari, questo abbiamo l'intelligenza per partecipare. Ecco, però no, anche, io non faccio parte anche delle commissioni di gestione, sì. Io faccio parte della commissione esteri. E sono settimane che io chiedo di fare una discussione sulla politica estera dell'Europa, e non si fa. Non si fa. Però nella sua partecipazione al voto viene definito dall'alto verso il basso, cioè ottimo, buono, sufficiente, scarso, e lei però è scarsissimo. Non vota, demita, che fa? No, non è vero. Non è vero. Se fosse vero questo, dovrei avere la decurtazione sull'indennità. Quella mai. Decurtazione vuol dire mai. Che è sufficiente. In che senso è sufficiente? Lo stipendio o intende la partecipazione? La presenza. La presenza. Per i canoni europei. Senta, un'ultima cosa però, perché tornando al tema d'apertura... La relazione tra una questione seria, che è quella della chiusura di un'azienda, no, ma infatti era solo una digressione. Beh, era una digressione. No, tornando ecco, alla questione seria, non è un Demita. Modo per discutere seriamente di una cosa. Ecco, allora chiudiamo seriamente sulla vertenza che riguarda Irisbus in provincia di Avellino. Lei dice, mette un po' anche in discussione le scelte di Marchionne, per esempio. Lei ce l'ha con Marchionne, come le vede? No, questo è strano, perché il rappresentante della Fiat, nelle riunioni fatte, ha raccontato che si è mosso in tutte le direzioni, e perché negli ultimi 4 anni la domanda di Pullman si è ridotta. E non avendo prospettive, io non contesto questo criterio, anzi, come dire, la mia indicazione di occupare la fabbrica è volta a riaprire la discussione. Io capisco che c'è un riflesso condizionato sul precedente, l'occupazione della Fiat da parte di Berlinguer era dentro la logica dello scontro di classe, l'occupazione dell'azienda nella provincia di Avellino è la disperazione di un pezzo di territorio che non avendo rappresentanza autorevole che pone questo problema e costringe mi scusi, torniamo alla questione, perché solo perché io ho detto agli operai occupate l'azienda, e vabbè, questo è un po' sono i meccanismi dell'informazione, ma torniamo al discorso: se Marchionne venisse chiusa questa fabbrica perché non ci sono commesse, a una logica di mercato, la vostra azione dovesse andare, diciamo, non a buon fine, lei sarebbe d'accordo con Marchionne o no? Se non c'è domanda, perché dovrebbe rimanere? Io non attacco, io contesto il ruolo del sindacato e l'inerzia del governo. E come. Quindi è il governo che non sta. Un soggetto che richiama i soggetti interlocutori. Il problema è non è rivendicare qualcosa, è costringere governo, sindacati e azienda a ricreare le condizioni perché la fabbrica possa continuare. Ho capito. E questo, secondo lei, il tavolo di cui si parla in queste ore, che potrebbe aprirsi con le parti sociali, è un'ancora di salvezza? È credibile, secondo lei? Io mi auguro di sì. Se quelli che vanno al tavolo di salvezza, anziché trincerarsi nell'indifferenza, riflettono seriamente... Io non escludo. E il campus estivo che propone Calderoli? Ma io sulla Lega ho un'opinione, come dire, storica diversa. Il campus delle riforme, dice Calderoli. Ecco, il campus delle riforme mi sa tanto che serve più per piantare patate che per riflettere. Non a caso è proposto da un ministro come Calderoli. Un campo, dice. Vabbè. Grazie Demita, ci vengo. Grazie Demita, 18 e 42 minuti, 800 24 00 24, sentiamo qualche ascoltatore che abbiamo un po' trascurato sin qua. Giorgio da Savona, buonasera. Buonasera, intanto meglio lei che Cruciani. Grazie, ma diciamo non è il tema della serata, ecco, mettiamola. No, ma il tema è proprio, sì. Aggancia a quanto detto prima riguardo l'intervento del ministro Calderoli. E credo che, se non sbaglio, mi corregga, ma la crisi economica non è scoppiata 3 ore fa, neanche 3 giorni fa, neanche 3 mesi fa, ma sono 3 anni. E oggi parliamo di campus, di strategia della fretta, di riunirsi tutti le parti sociali per trovare delle soluzioni alla crisi. Io ogni tanto mi tocco e dico, ma vivo o sono in questo momento? Se questa è la nostra classe politica, sono i comandanti della nostra nave, ohimè, vedo un altro Titanic, come dice il nostro ministro Tremonti. Cosa ne pensa lei? Grazie, sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori, cosa ne pensi? Io l'ho detto un po' in apertura e credo che il campus sia un po' superato dai fatti, sia un po' una boutade forse, mi perdoneranno gli ascoltatori amici leghisti. Maurizio da Torino, buonasera. Buonasera, la penso come lei sul fatto che il campus sia una boutade in tennis. Secondo luogo il mio intervento invece verteva su un altro discorso, sul fatto delle alleanze del centro-sinistra in vista delle prossime politiche. La cosa mi fa un pochettino sorridere, nel senso che, usando la metafora calcistica, mi sembra che una squadra non vada bene, e la squadra Italia non va bene da tantissimo tempo, al posto di cambiare giocatori, piuttosto allenatore, si mischino i ruoli, che ne so, il portiere va a fare il centravanti, il terzino va a fare l'ala e così via. Bisognerebbe, secondo me, cambiare i nomi, cioè in Italia c'è una gerontocrazia ormai... Ah, cioè lei dice, ma perché lo riferisce al centro-sinistra in questo caso? Perché secondo me coloro che adesso sono i Franceschini, sì, i D'Alema, cioè nel senso c'è tanta gente che adesso è lì da tantissimi anni, con ruoli diversi, e che negli anni non ha mai saputo fare nulla per cambiare veramente le cose. Cioè lei dice che uno dei problemi dell'opposizione è anche quello di trovare un ricambio trovare facce nuove, insomma, per essere credibili anche loro. Ecco. L'unica faccia nuova un pochettino forse Michi Vendola, però non lo so, a me sinceramente personalmente non convince. Adesso sentivo parlare Ciriaco di Mita, 83 anni se non mi sbaglio. Cioè a me quello che un pochettino pesa sulle spalle, dico 83 anni, tra l'altro un passato anche avuto, se non mi sbaglio, in uscita Tangentopoli un pochettino pulito con la mister del 90, non vorrei dire una cavolata che bisognerebbe andare a riformarsi, però dico, è di questi personaggi che la politica, non solo centrosinistra, deve in qualche modo, deve avere un rinnovo, però non so in che modo e non so... Va bene, grazie, chiarissimo il suo concetto. 800 24 00 24, prima però il traffico. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare mi pare di sentire dai primi ascoltatori che chiamano che quella del campus delle riforme proposto da Calderoli, anziché di andare appunto al mare ad agosto, parlamentari e governo, venga vissuto un po' come una boutade. Insomma, non ci sia una grossa fiducia su questa iniziativa. Sarà forse perché, come ho ricordato io, i fatti sono andati un po' più avanti. Adesso si parla più che di un campus dove studiare delle misure ipotetiche da mettere a punto a settembre, si parla di cose da fare già adesso. Governo e parti sociali. 18:47 minuti. Allora riprendiamo con gli ascoltatori. Direi che abbiamo Mirko da Aosta. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, anch'io intervengo sulla questione, sì, campus. Riterrei il termine campus un po' un modo ovattato di dire rimbocchiamoci le mani e sediamoci a parlare, perché la situazione è grave. Il fatto stesso che si sia anche superato l'idea, la butata, diciamo così, di Calderoli, è il chiaro fatto che l'Italia deve fermarsi e ragionare sulla sua crisi finanziaria, sulla crisi mondiale, e che è proprio il momento di riunire le forze per opposizione e per il governo. E la preoccupazione è tanta, al di là dei termini, delle schermaglie fra le persone, tra i politici. Allora, volevo una sua opinione sulla paura montante che c'è in Italia. Grazie. Insomma, lei dice che sostanzialmente Calderoli ha voluto dare un po' una scossa E poi appunto i fatti stessi si sono preoccupati di fare un passo in più rispetto a quello che era il discorso iniziale. Mettiamoci a riflettere su che cosa fare. Però io insisto, mi sembra che già il fatto che un ministro, invece di, come dire, prendere atto che la situazione sia piuttosto complessa, insomma, dal punto di vista economico per l'Italia, al punto di dire ma sì, mettiamoci a riflettere, poi a settembre vedremo, non sia proprio un segno di chiarissima lucidità sulle necessità che ha il paese. Questa è come la vedo io, però potrei sbagliarmi. E allora ripeto, ascoltatori, 800 24 00 24, la vostra opinione su questo. Chi abbiamo? Antonio da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Innanzitutto mi scusi, velocissimo, concordo con l'ascoltatore di prima, molto meglio lei. È una trasmissione molto più seria rispetto a quella che è diventata con Cruciani. Aboliamo i paragoni. Io ringrazio perché vi piace come, a lei almeno le piace come faccio la trasmissione in questo momento. Io però, ripeto, anche sì, per i futuri ascoltatori non è che sia il massimo, insomma, come tipo di apprezzamento. Però io gradisco questa proprietà sì. di conduzione, ecco, tutto lì. Grazie. No, a proposito di Ciriaco De Mita, che sì. Mi risulta essere uno dei politici più intelligenti della Prima Repubblica, così si diceva. Un intellettuale della Magna Grecia, si ricorda, aveva definito così un po' ironicamente Gianni Agnelli. Infatti, me lo ricordo perfettamente, sì, sì. Però dimostra anche lui lo scollamento che c'è tra il mondo della politica e la gente comune. Quando candidamente dice che l'aereo diretto c'è il lunedì e il mercoledì. Sì, è scandalo, è abbastanza scandaloso. Dice praticamente che lui lavora il martedì, perché sennò poverino deve fare uno scalo a Parigi. Cioè, ragazzi, veramente questa gente non ha più un'idea di cos'è il paese fatta per lavorare, per portare a casa uno stipendio che sarà un decimo di quello che prende lui al Parlamento europeo, e candidamente praticamente le ha risposto che non sarebbero affari suoi, parliamo della fabbrica, non parliamo di questo argomento. È insopportabile, direi. Insomma, poi gli ascoltatori giudicheranno, ma insomma... quello che lei dice, in effetti sì, cioè lui ha detto che l'aereo non gli consente se non facendo scalo a Parigi, mi sembra, questa non l'ho mai sentita, o forse qualche altro europarlamentare ha tirato in ballo questa questione della difficoltà di collegamento con Strasburgo, visto quello che guadagna, forse varrebbe la pena, visto che la sede di lavoro è quella, restare lì e lavorare lì. Vabbè, ma questa è proprio fantapolitica. Andiamo al prossimo ascoltatore, giusto? Così si chiama, da Pescara. Buonasera. Buonasera. Ascolti, io l'ho chiamata per questo motivo. Perché sì. Oggi sentivo, io sono in autostrada, sentivo per radio che anche in questa giornata il nostro paese è sotto attacco della speculazione. Io mi ricongiungo un po' al discorso che facevate prima con gli altri ascoltatori. Quella di Calderoro è veramente una buttata, come diceva lei, qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Noi dovremmo preoccuparci di queste cose, ci saremmo dovuto preoccupare di queste cose già da qualche mese fa, o addirittura, come diceva qualche altro ascoltatore, già da qualche anno fa. E invece si fanno questi ragionamenti di chi è più o meno abbronzato, perché sentivo Romani che diceva sì. A proposito di Fini, che per la verità è notevolmente abbronzato sempre. Sì, ma questo, guardi, uno può andare, io sono uno che ama il mare, ci vado il fine settimana, sabato e domenica, sto tutta la giornata, sono abbronzato, però le assicuro che dal lunedì al venerdì lavoro come un matto, per cui non si può dire una persona che ha l'abbronzatura, perché poi dipende anche dalla pelle, dalla capacità che ognuno di noi attraverso la sua pelle di abbronzarsi o meno. Lasciamo perdere questo. Io volevo dire che oggi il differenziale dello spread è cresciuto di nuovo in maniera esponenziale. Tutto quello che succederà in questo momento è che noi paghiamo più interessi e il nostro debito pubblico aumenta, ma non solo, caro conduttore di cui non ricordo il nome, perché io sono abituato a telefonare a Cruciani, che onestamente, come diceva il mio amico ascoltatore, io non rimpiango, i costi di finanziamento per le aziende aumentano di conseguenza di più. Ora, in questa situazione, io mi sento il Presidente del Consiglio che pensa esclusivamente al processo lungo, processo corto, e mi devo sentire un signore che si chiama Ciriaco De Mita, che, come diceva l'altro ascoltatore, lavora un giorno alla settimana, che telefona per un'azienda che molto probabilmente, mi dispiace, che è destinata a chiudere, dove lavoreranno magari dei suoi parenti, un signore che ha condotto una politica economica che ha portato insieme ad altre persone l'Italia a questa tragedia economica che noi viviamo. Mi sembra di vivere in un paese particolare. Grazie. Volevo dire questo. Grazie. Domenico da Andria, buonasera. Buonasera. Prego. No, io intervengo in merito al pentimento di Borghezio. Io penso che Borghezio sia stato sincero quando lui si è, diciamo così, ha chiesto scusa al popolo norvegese per il gesto di questo signore qui. Ma questo, secondo me, in questo lui era molto sincero, perché nella sua concezione politica ritiene il popolo norvegese un popolo fratello al popolo padano, perché quando Borghezio si trova a parlare di altri popoli, anche di popoli italiani, di popolazioni italiane come quelle del meridione, di Napoli, lui non usa tutte queste gentilezze o precauzioni. Questo per dire che secondo me quello che dice, diciamo così, questo per dire che l'opera di questo uomo, quello che è riduttivo definirla quella di un pazzo. Credo che bisogna guardare meglio, analizzare meglio certe concezioni politiche o, diciamo così, certa concezione del mondo che c'è in questi ambiti, che riguardano anche alcuni settori di alcuni partiti italiani. Grazie, grazie anche a lei. Allora, ancora un ascoltatore prima del giornale radio, direi sicuramente Enrico da Firenze. Buonasera all'800 24 00 24. Benvenuto. Buonasera, un attimo che mi parcheggio col camion, scusi. Perché... Ah, mi raccomando, il camion è ingombrante. Per cui... Allora, sì. Al volo, velocemente. Per quanto riguarda il discorso che stavate facendo sulla proposta fatta da Calderoli, ma questo qui veramente ogni giorno ne tira fuori una per cercare di recuperare quello che ha perso per le elezioni, perché fino ad oggi sono 18 anni, non hanno fatto niente, hanno portato solamente che il paese alla rovina. Lei però è a Firenze, ma è romano però, di dov'è? Sì, no, io sto guidando apposta, sono un autotrasportatore. Ecco, io dicevo questo, no? Per quanto riguarda questo aspetto, lui si dovrebbe solamente che vergognare, perché l'unica cosa che è riuscita a fare è stata la cosa del processo lungo, che guarda caso ogni tanto l'unica cosa che stanno fa è votare per il processo per quanto riguarda tutte le inchieste che c'ha Berlusconi. Non hanno fatto una proposta per quanto riguarda il lavoro dei giovani, non hanno fatto nulla. Stanno veramente portando il paese alla rovina. Speriamo che presto se ne vadino. Perché la stessa se ne vadino, cosa... questa non è mai. Se ne vadino. Sì, va bene. Grazie. Fermiamoci qua perché siamo a ridosso del giornale radio. Il tema allora questa sera è un po' questo, l'iniziativa sulle riforme, qualcuno crede alla buona fede, alla sincerità, all'affidabilità della proposta di un campus estivo per le riforme o quantomeno alle intenzioni del governo su questo, 800 24 0024, giornale radio. 19 e 16 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori all'800 24 0024 come ogni sera per intervenire in diretta a commentare i fatti della giornata, 349 238 6666 per i vostri sms oppure anche la zanzara at radio24.it. Allora, come dicevamo, ben ritrovati, spunti per questa serata li cerchiamo tra i titoli Sky TG24. Tonfo, Milano perde quasi 4 punti, nuovo record per lo spread. Debito americano, accordo tra democratici e repubblicani, evitato il default. Crisi Berlusconi in aula, mercoledì, giovedì incontro, governo, parti sociali. Tremonti spiato, la procura apre un fascicolo, il ministro sarà ascoltato come testimone. Lampedusa ha soccorso barcone, nella stiva trovati 25 clandestini morti soffocati. Bari immigrati in rivolta, guerriglia in strada, 50 feriti e 20 fermati. Repressione in Siria, Assad si congratula con l'esercito, imminenti sanzioni dall'Unione Europea. Montevarchi, niente caffè al tavolo per Cameron, il premier britannico non lascia la mancia. Un italiano, nuovo amministratore delegato di Sky, Andrea Zappia, prende il posto di Tom Mockridge. Vasco Rossi lascia la clinica, sto molto meglio, sono pronto a tornare sul palco, dice. La notizia che il premier britannico non lascia la Mancia forse si poteva anche omettere, ma insomma è agosto, TG3. Borse europee in rosso dopo i dati negativi sull'economia USA, svanisce l'effetto Obama, tonfo a Milano e forte tensione sui nostri titoli. Berlusconi alla fine ha deciso, mercoledì interverrà in Parlamento sulla crisi, il giorno dopo vertice con le parti sociali. Le opposizioni, il premier riferisce si dimetta, lui ci ha portato a questa situazione, Casini e Bersani giovedì incontrano sindacati ed imprenditori. Costi della politica, da oggi alla Camera e al Senato la discussione sui tagli al bilancio di Pietro, rinunciare ai privilegi. Al via l'inchiesta della Procura di Roma sul presunto pedinamento di Tremonti, presto interrogatorio del ministro e della scorta. In Siria continua la repressione violenta delle manifestazioni antiregime, la comunità internazionale protesta per il massacro dei civili. Nuova tragedia a Lampedusa, 25 corpi trovati nella stiva di un barcone soccorso in mare, a Bari immigrati in rivolta per l'asilo politico. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiappe ghiare, con i pesci in mezzo all'onne. Accanto a questo regime di austerità è necessario anche il rilancio dell'economia. E quindi ho proposto di sfruttare il mese di agosto, perché le migliori teste pensanti, sia che vengano dalla politica sia dal mondo associativo, si riunissero per formulare una serie di proposte che poi si possano portare già all'inizio di settembre in Parlamento, proprio per dare delle risposte immediate a un problema generale. Campus delle riforme, mi sa tanto che serve più per piantare patate che per riflettere. Non a caso è proposto da un ministro come Calderone. E il primo era Calderoli e il secondo era Ciriaco De Mita, che ai nostri microfoni poco fa così commentava la proposta di Calderoli: tutti al mare, no, contrordine quest'estate, governo e Parlamento, tutti al campus estivo per le riforme, per studiare le tecniche, insomma le misure da adottare a settembre. Poi il contrordine, a dir la verità, forse l'ha dato lo stesso Berlusconi, che ha detto no, mercoledì sarò in aula alla Camera e al Senato per riferire sulla crisi economica e poi per incontrare le parti sociali per affrontare la situazione economica. Gli ascoltatori all'800 24 00 24 nella prima parte della trasmissione erano più che altro un po' così scettici sulle iniziative della Lega e di Calderoli da questo punto di vista, ma aspettiamo pareri diversi. A proposito di Lega, un Bossi che parla con un retroscena inedito, o quantomeno un punto di vista che non avevamo ancora sentito, sulla guerra di Libia. In fondo sapete che Berlusconi non la voleva quella guerra, era l'imposto, proprio il Presidente della Repubblica l'ha voluto, giusto per non fare nomi. Bossi dice Berlusconi la guerra di Libia non la voleva, e sin qua è credibile, perché in effetti insomma per un ex alleato come era Gheddafi dichiarare guerra non era semplice da parte del Presidente del Consiglio. Poi c'è stato a prevalso, come sapete, una forma di realpolitik per Bossi, però a prevalso anche un diktat in qualche modo di Napolitano, che invece ha spinto perché l'Italia si allineasse alla NATO nella guerra alla Libia. Ancora Bossi, perché siamo a caccia di misure per anticrisi e per insomma trovare nuove fonti di entrate fiscali. E Bossi ha detto: la Lega è contraria ai ticket sanitari, lo sapete. Su questo ecco che cosa propone: tasse sul fumo. Il ticket sanitario noi non lo vogliamo, secondo me non passerà, così come l'ha detto Tremonti. Piuttosto aumentiamo il costo, che so, delle sigarette, del tabacco, delle sigarette. E questa era, secondo Calderoli, sarebbe stata una delle proposte da portare al campus, cioè la tassa sul tabacco proposta da Bossi, che fuma il sigaro. 19:22 minuti, 800 24 00 24. Però salutiamo Filippo Berselli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Parlamentare del PDL, credo presidente della Commissione Giustizia. Certo. È così. Del Senato. Del Senato, però anche emiliano e credo bolognese. Certo. bolognese doc. Sulla questione, 2 agosto, domani l'anniversario della strage di Bologna, 2 agosto 1980, 31 anni sono passati, e c'è, come già anche altre volte, l'anno scorso in particolare, la polemica del governo che non parteciperà, non avrà esponenti direttamente della maggioranza del governo, in questo caso a Bologna, sollevando così la reazione e le critiche anche dei presidenti dell'associazione familiari. Presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage di Bologna, che parla di una ritorsione. Paolo Bolognesi dice: noi abbiamo parlato forse di un passato che è ancora presente, i servizi segreti, il coinvolgimento degli apparati dello Stato, e adesso il governo ci nega la presenza. Berselli, da bolognese, che cosa risponde a questo? Ma io mi ricordo ancora il giorno in cui avevo notizia della radio della strage del 2 agosto, io corsi a Bologna e con la bomba appena scoppiata immediatamente si scatenarono le iniziative strumentali demagogiche, politiche, e i morti non venivano ricordati per quello che erano, ma iniziò una strumentalizzazione politica vera e propria, e che è continuata negli anni successivi. E quelli che andavano da parte del governo a rappresentare le istituzioni erano fischiati. Quella che doveva essere un momento di commemorazione e di cordoglio per le vittime e di partecipazione al dolore dei familiari si è poi sempre mantenuto su livelli politici di strumentalizzazione. Io credo che il governo non solo abbia fatto bene, ma abbia fatto benissimo, perché non è neanche corretto e dignitoso esporre i rappresentanti del governo e comunque delle istituzioni a fischi e Però Berselli, mi è capitato, perché lei c'è stato diverse volte su quel palco lì. Sono stato varie volte, ma insomma c'era una contestazione becera. E tra l'altro io come coordinatore regionale, è chiaro che ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io non vado il 2 agosto, anche se nei primi anni ci andavo, perché è una cosa inaccettabile questa. Poi quando si chiede al governo di dare delle risposte, a che cosa? Io mi domando a che cosa. Noi non so se abbiamo una verità storica, però abbiamo una verità processuale. Mambro e Fioravanti sono stati condannati per la strage. Coloro che sostengono la non responsabilità dell'uno e dell'altro periodicamente fanno conferenze stampa, organizzano incontri, però nessuno ha mai chiesto che venisse promosso un giudizio di revisione di quel processo, di quella sentenza. Quindi la contestazione parte da coloro che contestano questa verità processuale, che sarebbe in contrasto con la verità storica. Però noi, a differenza di altre stragi, una verità processuale l'abbiamo a Bologna. Sono stati condannati Mambro e Fioravanti. Quindi non riesco a dire come i partiti di estrema sinistra e l'associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto si ostinano a chiedere al governo delle risposte, ma la risposta era già data alla magistratura una volta tanto. Se per altre stragi i responsabili, i mandanti, gli esecutori sono rimasti ignoti, per Bologna non è così. Quindi che cosa si aspettano Ma lei parla cosa chiedono al governo? Non ho ancora capito. Lei parla di strumentalizzazioni e poi cita i partiti dell'estrema sinistra e l'associazione familiari vittime. Li mette sullo stesso piano? Allora, io ho sempre avuto un grande rispetto dei familiari, perché il dolore dei familiari va sempre rispettato. Però non è questione dei familiari, è quando organizzano queste cose per il 2 agosto, al di là delle buone intenzioni, io le do per ammesse dei familiari, però ci sono dei gruppi consistenti di contestatori che utilizzano per far passare in secondo ordine i motivi per cui si celebra il 2 agosto. Ecco, però è proprio questo il punto, però, Berselli. Si ricordano le vittime, si devono ricordare i familiari. Se queste iniziative ci si trasformano in una becera contestazione delle istituzioni in generale, perché voglio ricordare che poi le contestazioni sono state rivolte in passato non soltanto a esponenti del centro-destra, ma anche a esponenti del centro-sinistra. Ce lo vogliamo ricordare, sì o no? Quindi non è tanto una questione politica contro gli esponenti del governo Berlusconi. È sempre stato così, si è accorto. Però mi scusi Berselli, è chiaro quello che lei dice, ma non è che lasciando in qualche modo da parte del governo, in questo caso, la piazza, adesso ci ricordi anche chi la organizza e come questa manifestazione che ogni anno si svolge a Bologna, non è che lasciando la piazza si dà ragione in qualche modo a chi, come le dice, gruppuscoli che magari fischiano a prescindere per questioni politiche o di tornaconto del momento, e si dà ragione proprio a queste persone, facendo un torto ai familiari delle vittime che invece vanno lì proprio Io sono in questo momento momento per porre le loro questioni davanti, sì, alla stazione di Bologna. C'è scritto Bologna 2 agosto 1980, 2 milioni, per non dimenticare. Ma chi è che vuole dimenticare? Questo è il punto. Cioè anche questa frase, per non dimenticare, è provocatoria. Sembra quasi che ci sia chi non vuole dimenticare e chi vuole dimenticare. Beh, insomma, però che durante i processi ci sono anche... Ma non è affatto vero, nessuno vuole dimenticare. Beh, c'è stato qualche tentativo di depistaggio, ci sono state delle condanne anche da questo punto di vista. E questa è una verità. Chiedo, e con questo abbiamo avuto una verità processuale. Certo. A differenza di altre stragi, qui noi abbiamo... Cioè lei contesta la targa per non dimenticare? No, io in questo momento non contesto, sono davanti alla stazione di Bologna, stanno sistemando il palco, no? E non è una targa, è uno striscione, cioè, sì. È chiaro, per non dimenticare. Ma insomma, cosa vuol dire? Che c'è chi vuol dimenticare? Nessuno vuol dimenticare la strage del 2 agosto, nessuno vuol dimenticare la tragedia che ha colpito la città di Bologna, nessuno vuol disconoscere il dolore dei familiari, ci mancherebbe altro. Ma questa frase, per non dimenticare, fa supporre che c'è una parte che non vuol dimenticare, una parte che vuol dimenticare. Allora vediamo se faccio io la parte diciamo di bolognesi e dei familiari delle vittime, che parlano per esempio della legge 206, che nonostante gli impegni presi, per esempio, fra l'altro c'è anche un altro esponente politico che lei dovrebbe conoscere bene, Raisi, che è un esponente della destra bolognese, storico, perché ha fatto il consigliere, l'assessore proprio a Bologna, che dice Berlusconi aveva preso un impegno, per esempio, sulla trasparenza delle un'operazione verità a largo raggio, eccetera, eccetera, che poi è stato disatteso. Questo è un suo ex collega di partito. Lasci perdere Raisi, perché Raisi, così come c'è chi specula da una parte, c'è chi specula dall'altra. Non voglio dimenticare che Raisi periodicamente tira fuori la responsabilità di questo Carlos, fa conferenze stampa, fa incontri, sostenendo che la verità processuale non corrisponde alla verità storica. Io ho sempre detto a Raisi, anche quando era nel PDL, che era finisci con queste cose. Se hanno degli elementi in mano, lui, la Mambro, Fioravanti, coloro che sono accodati nel sostenere responsabilità di Carlos o di altri, beh, si facciano promotori di un diritto di revisione. Come vedi, io non è che sia tenero con quella parte. Se uno contesta che la responsabilità della strage non è di Mambro e di Fioravanti, insomma, porti degli elementi per aprire un precedente di revisione. Quindi anche non sono d'accordo affatto con Raisi e con quelli che sostengono che la verità processuale non corrisponde alla verità storica. Abbiamo una verità processuale, ma gli errori però è una questione di punti di vista, e i familiari chiedono al governo di essere presente. Berselli, resti ancora un attimo con noi, un minuto, so che deve prendere un treno, però noi abbiamo solo una breve pausa per la borsa. E poi le voglio chiedere perché è proprio, diciamo così, insopportabile per un membro del un rappresentante del governo, delle istituzioni, sopportare qualche fischio e quindi pagare il prezzo di non esserci pur di non tollerare qualche fischio. Un attimo la borsa. 19.35, ben ritrovati, 800 24 00 24. Tra un attimo riprendiamo anche con gli ascoltatori. Onorevole Filippo Berselli, stavamo parlando di domani 2 agosto, anniversario della strage di Bologna, del fatto che lei conferma, insomma, il governo non sarà presente, non ci sarà nessuno, comunque la notizia viene confermata. Il governo è rappresentato dal prefetto di Bologna. Dal prefetto, sì. Quindi non vedo che cosa ci sia da ridire su questo. No, era una domanda, in coda a quello che lei diceva. Sì. Non si è assistita a qualche fischio isolato, ci mancherebbe altro. Si trattava di bordate di fischi, di contestazione violenta, del tentativo di impedire a chi rappresentava il governo di parlare. È una situazione ben diversa da quello che si vuole dire. Sì, perché la mia domanda era questa, no? Lei ha detto giustamente, noi non saremo, questa è la posizione ufficiale del governo, già da 2 anni, perché ci sono contestazioni, fischi violente, aggiunge lei, e non vogliamo esporci a questo, anche se Bolognese, a parte sua, dice avevamo creato le condizioni per... Ma lasciamo perdere. Quello che le domando è... non è che in qualche modo il rappresentante del governo è pagato anche per beccarsi qualche fischio, qualche commemorazione, celebrazione, non fa parte anche dei compiti. Si oltraggiano anche le vittime della strage, che vengono strumentalizzate per fini politici. Cioè, e questo è il punto che forse non si vuole intendere. Nessuno vuole dimenticare questa orribile strage. Ma quindi lei sarebbe per abolire questa commemorazione proprio perché la trova addirittura un oltraggio alle vittime? Sì, è un oltraggio alle vittime, così come viene impostata è un oltraggio alle vittime, sono certamente convinti questo. Si potrebbe sostituire con una santa messa nella chiesa di San Petronio. Quindi lei farebbe una santa messa a San Petronio piuttosto che queste commemorazioni? Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Magari... Oppure si faccia una santa messa nella piazzale della stazione. Cioè, sarebbero capaci di contestare anche il cardinale però se andati in piazza. Chi dovrebbe farsi promotore di questa iniziativa? Ma non so, certamente i familiari delle vittime, ma crede altro, sono loro, non è che io possa dire. Però loro già celebrano nella loro maniera. Lei sta proponendo una cosa diversa, dovrebbe farsi promotore di questa cosa. Titolo per proporre nulla, io dico soltanto che se fossi uno dei familiari delle vittime, proprio per non farmi strumentalizzare, valuterei l'opportunità di trasformare questa chiassata scandalosa e vergognosa in un momento di raccoglimento nella chiesa di San Petronio, che rappresenta, è il simbolo della città di Bologna, non soltanto dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista civile, perché San Petronio è il luogo per eccellenza in cui si raccoglie per chi crede in preghiera, diversamente per ricordare le vittime di questa, sarebbe il posto ideale la chiesa di San Petronio. Diversamente, nella piazza della stazione si celebra una santa messa, quello mi andrebbe benissimo, con il rischio però che contesterebbero anche il cardinale se andasse a celebrare la messa nella piazzale della stazione di Bologna. Non ho dubbi neanche su questo. Non credo che il cardinale potrebbe celebrare una santa messa in tutta tranquillità nel piazzale. Avrebbe contestato anche lui, comunque ci si potrebbe provare se il cardinale fosse disponibile e se l'iniziativa partisse ovviamente. Ma secondo lei questo è, diciamo, oltre ad essere un'ipotesi, è auspicabile, cioè superare la commemorazione? Direi di sì, perché è inutile che a 21 anni di distanza si ripeta un rituale che si è perpetuato in 21 anni. Per che cosa? Per accusare sempre il governo, perché ricordiamoci che nel 1980 non c'era un governo di centrodestra, ricordiamoci anche questo, i governi di centrodestra li abbiamo avuti per 6 mesi nel 94, per 6 anni, nei 5 anni nel 2001 e per 3 anni nel 2008, stop. E ci sono stati governi ben di altro colore politico, però devo dire e devo riconoscere che la contestazione ha colpito anche quei governi. Quindi io la domanda che pongo ai familiari, soprattutto al suo presidente Bolognese, ma che risposte si intendono dalle istituzioni? La risposta è dalla magistratura. Se loro fossero i familiari di stragi rimasti impuniti, avrebbero tutte le ragioni del mondo per chiedere al governo. Beh, per esempio sulla questione del segreto di Stato, questo non sta alla magistratura. Ma io posso dire, sul questo sta al governo, alle istituzioni. Io sono d'accordo e io mi feci promotore di rimuovere il segreto di Stato qualcosa come 10 anni fa, non 2 giorni fa. Io sono assolutamente d'accordo per rimuovere il segreto di Stato, ma non c'è bisogno però di chiedere risposte al governo o di fare delle contestazioni o delle piazzate alla stazione di Bologna nel giorno della ricorrenza. Se uno mi chiede sei d'accordo per rimuovere, io sono d'accordo, ma però se poi non viene fatto Berselli, queste persone chiazzate, a un certo punto si chiede ai parlamentari, noi oggi abbiamo un ministro che è il ministro Bernini, si chiede al ministro di farsi il portafoglio presso il governo, di rimuoversi, ma questa è una richiesta legittima, ci mancherebbe altro. Che tra l'altro avevamo chiesto anche noi in un'intervista al ministro Bernini proprio su questo, però per il momento non c'è stata concessa. Io posso dire, per quanto mi riguarda, io così rispondo delle mie azioni, io come Presidente della Commissione di Giustizia valuterò la possibilità di impegnare il governo con un'interrogazione che presento io per il nuovo segreto di Stato, ma queste sono cose legittime, ha capito? Che non sono cose che deve, interpretare solo una parte politica. Io sono del centrodestra, vengo dalle Alleanze Nazionali, prima ancora dal Movimento Sociale Italiano, io sono d'accordo per rimuovere il segreto di Stato, punto. Ma io con questo non giustifico le chiazzate in piazza contro il governo, ci mancherebbe altro. Però magari prende un impegno come Presidente della Commissione Giustizia per fare qualcosa d'accordo su questo, e questo potrebbe essere... Possiamo dire a chiare lettere, io il Presidente della Commissione Giustizia di prendere l'impegno di attivarsi perché venga rimosso il segreto di Stato. Io sono d'accordo però è chiaro che non c'è bisogno di fare quello che è stato fatto negli ultimi anni e che avrebbero fatto anche quest'anno su questo specifico problema. Questo specifico problema si risolve, secondo me, in modo molto semplice, rimuovendo il segreto di Stato. E se il problema è questo, io sono assolutamente, lo sottoscrivo. Però non è che questo giustifichi quello che è stato fatto negli ultimi anni e anche prima, voglio ricordare, anche prima. Vabbè, insomma, questo mi sembra chiaro il concetto. Insomma, io sono d'accordo, sulla rimozione del segretario sono d'accordo e domani, non fra un anno, mi farò promotore di un'iniziativa in questo senso. Ecco, questo sarebbe anche significativo proprio nel giorno del 2 agosto. Sì, grazie, sì, Filippo, esatto. Berselli. So che tra l'altro deve prendere anche un treno. Abbiamo sentito lo sferragliare della ferrovia e quindi adesso lo lasciamo ai suoi impegni. Grazie, buona serata. 19:42 minuti, 800 24 00 24. Ascoltatori, però direi di passare rapidamente anche al prossimo ospite, perché anche lui ha un impegno. Antonio Mazzocchi, deputato del PDL. No, non ce l'abbiamo. Ah, è saltato. Non capisco cosa che segni mi fa. Allora, sì, lo sentiamo tra un attimo, il questore della Camera, mi dicono. Prima però temporeggiamo. Andrea da Brescia, un ascoltatore che ci chiama. Buonasera, benvenuto. Sì, buonasera. Non faccio paragoni sulla conduzione della trasmissione, ma le faccio i miei complimenti, mi accodo a quanto hanno detto gli altri ascoltatori. Sì. Però un paragone voglio farlo tra quello che ha detto Calderoli e, tornando all'argomento di prima, e De Mita. Direi molto meglio quello che ha detto Calderoli, è tutto dire questo mio commento, e anche se quello che ha detto Calderoli, a mio avviso, e poi vorrei un suo parere, mi sembra una buttata per puntellare un po' le borse, mentre quello che dice De Mita mi sa tanto di clientelismo, di assistenzialismo, di prima repubblica. Guardi che chi le parla è nato un po' qualche anno prima che De Mita entrasse, ha detto la data in trasmissione, entrasse in politica, e 30 anni dopo, per non aspettare proprio i politici che promettevano, per non continuare ad aspettare le promesse dei politici e di altri amministratori locali, si è trasferito al nord a fare l'imprenditore. E volevo aggiungere che nel tessile, dove opero io, negli ultimi 10 anni si sono persi 700.000 posti di lavoro, e la stima molto probabilmente è per difetto, e nessuno parla di questo nel tessile come in tanti altri settori, perché molti settori sono in crisi, non so, la Mavib che ha 50 dipendenti e deve escogitare argomentazioni del tipo le donne possono stare a casa perché c'è un altro stipendio per poter licenziare, ma non perché vogliono licenziare, io sono certo di questo, anche perché è una ditta che conosco personalmente, ma solo perché stiamo veramente arrivando alla camera del gas, le aziende non possono più stare in piedi con questo sistema, con questi sprechi, con questo pugno fiscale al quale non si mette mai mano, si dice che che lo si farà, ma questo è colpa sia della destra che della sinistra, perché ne parlava Prodi, ne ha parlato Berlusconi da imprenditore, ma non ha fatto nulla, e questa, ecco, vorrei una sua impressione su queste argomentazioni un po' da persona che è sul campo. Grazie, insomma. Ma no, sul campo. Adesso diciamo, commento a quello che ha detto, magari lo rimandiamo più avanti, sentiamo gli ascoltatori che cosa ne pensano. All'800 24 00 24. Però avevo annunciato un ospite, adesso ci ha raggiunto Antonio Mazzocchi, deputato del PDL, questore della Camera, è così? Sì, buonasera ai radioascoltatori. Buonasera, la notizia abbiamo letta anche ascoltata dal giornale radio, sì. Oggi è stata presentato il risultato di un'indagine, credo conoscitiva, sì, sul livello degli stipendi dei parlamentari europei, sì, e la vostra conclusione, lei e dei colleghi questori, è che sostanzialmente lo stipendio dei parlamentari italiani non è diverso da quello della media europea, anzi addirittura voi dite è addirittura più basso. Però io le chiedo, siete sicuri? Perché insomma, vista dagli occhi, da qua, da come la pensa un sacco di gente in Italia, non sembrerebbe proprio così, Mazzocchi. Guardi, noi abbiamo inviato dei funzionari, non è che noi improvvisamente ce la siamo inventata, abbiamo mandato dei funzionari sia a livello europeo, che hanno girato tutte i principali parlamenti europei, per cui hanno recepito quanto viene il costo del deputato, perché vede, qui spesso si parla dell'indennità del deputato, noi dobbiamo invece pensare quanto costa il deputato per ogni... Questo è interessante, perché nei conti che abbiamo visto fare mille volte, più che lo stipendio, contano tutta una serie di benefit. Le avete compresi quelli, il telefono, il treno, l'aereo, lo stadio, il teatro? Infatti, considerando... Considerando tutti questi che lei chiama benefit, insomma tutti questi servizi, noi siamo al di sotto dell'Inghilterra, della Francia e della stessa. Cioè della le cifre che io leggo Germania, che sono state riportate in agenzia, parliamo per esempio del lordo, 20.486 euro lordi. Comprendono anche questi che io ho chiamato benefit e che lei chiamerà in un altro modo? Sono servizi, il problema vede qual è? Che negli altri paesi da anni, ciò che non ha fatto l'Italia e che invece dovrebbe fare, alcuni servizi che si danno ai deputati italiani, ai parlamentari italiani in soldi, li dà direttamente alla Camera dei Deputati. Infatti noi auspichiamo questo, perché poi l'indennità del deputato italiano è 4.200 euro al mese, netti, io parlo sempre del netto. Poi è evidente, se noi andiamo ad aggiungere altre cose, è evidente che poi si arriva alla famosa cifra di 13.000, 14.000 o 15.000 euro. Tenga presente, le voglio dire questo anche per i radioascoltatori, noi abbiamo appreso con grande piacere che molte persone hanno fatto il blocco delle proprie indennità. Bene, lei deve sapere che noi sono oltre 8 anni che abbiamo ridotto fatto il blocco dell'adeguamento dell'indennità, ma abbiamo ridotto già due volte, quest'anno con 1.000 euro abbiamo tolto, nel 2006 abbiamo fatto un'altra riduzione del 10%, noi abbiamo ridotto dal 2007 ad oggi del 25%, dico del 25%, l'indennità, il costo del deputato, restituendo cioè l'indennità in 5 anni 300 milioni di euro. Benissimo, 300 milioni di euro in 5 anni, anni, 2007. Mentre tutti i lavoratori hanno l'adeguamento Istat annualmente, il deputato italiano sono 7 anni che non ha questo adeguamento. Però il costo complessivo, quella cifra lorda di cui parlavamo prima, 20.486 euro, sono riferiti a quale periodo, alla fase attuale, al 2011? Immagino. Quando le parla di lordo, sì. Sì. Questa cifra rispetto agli anni passati è cresciuta o è diminuita? Mi scusi, questa cifra non 20.486 abbiamo detto. Questa cifra rispetto agli anni passati è cresciuta o è diminuita? È diminuita. È diminuita, le spiego subito perché se noi teniamo presente l'adeguamento che c'è stato nel corso degli anni, è diminuita, cioè è rimasta invariata rispetto, è diminuita, perché che le posso dire, quest'anno esempio pratico, noi abbiamo tolto 500 euro alla a 1.000 euro in tutto, 500 alla diaria per i servizi e 500 euro li abbiamo tolti per quanto riguarda il rapporto eletto-elettore, sono quei 1.000 euro al mese togliamo, che togliamo 12.000 euro all'anno ai vari deputati, più poi tenga presente gli blocchiamo il cosiddetto adeguamento. E poi però c'è sempre qualche aumento da qualche altra parte, perché lei ha usato anche la parola invariato, è diminuita o invariata, ha detto. No. Per me, guardi, è diminuita. Allora, il problema è questo qua, se noi consideriamo la cifra complessiva corrente è diminuita, se noi consideriamo in questi 5 anni è diminuita, come le ho detto, del 25%, per cui rispetto all'altro anno, per parlarci chiaramente, è diminuita di 1.000 euro al mese, più poi se lei considera una svalutazione dell'1,5 lei è di più, ma è tutto ciò invece viene applicato agli altri lavoratori. Non facciamo confronti con gli altri lavoratori perché poi si apre un altro capitolo. I lavoratori delle altre istituzioni. Però sappiamo che partiamo. Sappiamo che partiamo da una situazione in cui gli stipendi sono sufficienti, notevoli, alti, altissimi, dica lei, comunque non da mettere in difficoltà il parlamentare, partiamo da questa situazione, quindi che ci sia una invarianza o una diminuzione, questo mi consenta, ma credo che sia non da rivendicare, ma sia una cosa che fa parte della normalità. Però un altro punto mi interessa, abbiamo parlato del lordo, mi stupisce sul netto, sempre i dati che avete presentato voi quest'oggi, perché sul netto i deputati italiani scendono a 10.257 euro e questa volta nel confronto con gli altri parlamentari, insomma, è più alto della Germania, è più alto della Gran Bretagna, per esempio, di quasi 2.000 euro. Il totale netto percepito dai deputati italiani è di 10.257 euro. 2.000 in più della Gran Bretagna però, Noi abbiamo 11.863 euro con la Francia, la Germania 9.932 euro, la Gran Bretagna 8.540, il Parlamento europeo 13.285, per cui è in linea. Poi se noi inventiamo il costo del parlamentare, noi vediamo che il deputato italiano viene a costare 20.486 euro, inferiore rispetto a quello francese che viene a costare 23.066 euro, a quello tedesco che viene a costare 27.364 euro, a quello inglese che viene a costare 21.089 euro, per non parlare del deputato europeo che viene a costare 34.750 euro all'anno. Vabbè, il deputato europeo è un'altra istituzione, però mi consenta un'ultima cosa, un'ultima valutazione. Rapportando queste cifre anche al tenore della vita, forse ha ragione lei, perché credo che è maggiore di altri paesi. Questo mi sorprende, perché io invece guardi, pensavo il contrario, pensavo che un operaio tedesco guadagna anche 3.000 euro e in Germania, e in Italia ne guadagna 1.500-2.000, se va bene. Il problema è questo qua, tutto sta a sapere se si vuole portare il deputato allo stipendio dell'operaio. Guardi, io le dirò di più, che questa antipolitica che la stampa sta portando avanti farà in modo che il deputato non guadagnerà neanche una lira, ed è giusto pure, perché così ritorneranno i baroni. Vedo gente intorno a me allargare le braccia in un segno di gioia. Poi non si dica che questa è l'Italia degli industriali che vogliono governare. Noi vogliamo che sia un'Italia dei lavoratori, vogliamo anche che chi ha la quinta elementare, un operaio, possa diventare deputato e possa dignitosamente Io vorrei che un operaio guadagnasse un salario decente, non che per guadagnare debba diventare un deputato. Io le vorrei dire una cosa, non è questa la via, insomma, a meno io così la vedo. 4.100 euro al mese, soprattutto per professionisti, chi le parla è un avvocato cassazionista che non fa più l'avvocato cassazionista da 20 anni, secondo lei è adeguato o no il mio stipendio? Guardi, io guadagno molto meno, però non mi permetto di giudicare il suo, no? No, ma il problema è giusto quando si affronta tutto il discorso, cioè che noi dobbiamo migliorare la classe politica, che noi dobbiamo diminuire i parlamentari da 630 portare a 350, che noi dobbiamo fare anche un esame del dibattito di oggi, della giungla dei vari retribuzioni che ci sono nei vari enti pubblici italiani, che noi dobbiamo abolire le province, siamo d'accordo. Siamo d'accordo, però poi non si fa mai, Mazzocchi, anche questo. Insomma, no, dico, siamo d'accordo, però non si fa poi. Quindi. No, beh, sì, però ecco perché poi c'è anche l'antipolitica. Si parla soltanto del deputato. Guardi, quando io ho letto, tenga presente, io una grandissima ammirazione per questo Presidente della Repubblica, e glielo dico con tutta chiarezza. Bene, quando ho letto che il Presidente della Repubblica giustamente ha detto io mi blocco da oggi in poi la mia indennità fino a fine mandato, io ho detto un grande esempio, ma noi sono 7 anni che l'abbiamo bloccato. Ha capito? Sì. Cioè, le voglio dire, alcune cose non si sanno, però questa è la realtà. Che poi bisogna dare ulteriori sforbiciate, che poi dobbiamo dare un esempio. La verità è che dobbiamo dare un esempio più che attraverso una politica economica che dia più fiducia ai cittadini, perché vede che c'è oggi una male l'antipolitica nasce anche dal fatto che essendoci un malumore nei cittadini per una situazione economica grave, giustamente quando un cittadino che si muore di fame vede casomai l'onorevole Mazzocchi che prende un'indennità che è dignitosa per lui ma per il morto di fame non è dignitosa, si arrabbia, ha ragione pure ad arrabbiarsi. Sì, è la somma delle due cose, la spesa e la poca resa, facciamo così con una rima, la spesa e la poca resa. Qualche cosa pure voi sopra, perché anche voi ne parlate di queste, anzi una volta dovremmo parlare anche dei direttori dei giornali, sì. Vediamo un po', ecco. Quando vuole a disposizione, io non lo so perché non sono direttore, però... Tenga presente, i direttori dei giornali che giustamente prendono quelle pensioni, vede? Lei pensa che la mia è una cosa polemica, no, io le voglio dire che ognuno se ha una funzione giustamente deve prendere un tipo ma questo io non volevo riaprire questo tipo di discussione, però è quello che mi incuriosiva era la conclusione del vostro del vostro studio, del vostro ragionamento, che diciamo era contraria al buon senso, a quello che si è sentito dire precedentemente o in altre sedi, insomma, sullo stipendio dei parlamentari, che non era esattamente il più basso d'Europa, come avete concluso voi. Sembrava un po' autoassolutorio. Guardi, a meno che qualcuno non ci quereli per falso, i dati sono questi, quelli che le ho detto. Non è che di fronte a tanti radioascoltatori sarei proprio incosciente a dare dei dati inesatti. Questi sono i dati reali. Il problema non è questo, il problema è un altro, è come cercare di restituire in questa situazione economica, contribuire con lo Stato ridando dei soldi allo Stato. Noi in 3 anni diamo 151 milioni di euro allo Stato, credo che cerchiamo ulteriormente di fare altre sforbiciate. Ma questo, questo però considerando il costo complessivo, diciamo la spesa che fa la Camera, io come questore ne sto parlando, sto dicendo tra spese correnti e spese in conto capitale, noi restituiamo allo Stato 151 milioni di euro in 3 anni. Per esempio l'indennità sulle pensioni sopra la soglia. Esatto, noi abbiamo messo ci sarà il contributo, no? Come no? Del 5 e del 10%, non soltanto, ma noi vogliamo anche, le dirò, fare in modo che non sia soltanto una cosa temporanea, ma diventi strutturale. Benissimo, anche questo è un impegno del questore Mazzocchi questa sera. No, non solo, ma io le dico più, che la mia proposta è anche un'altra, che il vitalizio si possa prendere dopo 2 legislature almeno, non subito. Questa sarebbe la riforma delle riforme, oppure come per tutti i lavoratori, con tempo ancora più lungo, però lasciamo perdere. 19:57, 30 secondi, grazie. Il questore Antonio Mazzocchi del PDL, buona serata. 800 24 00 24, tra poco rientriamo, poi sentiremo anche i titoli dei telegiornali e molti interventi ancora degli ascoltatori. Una pausa. 20 in punto, ben ritrovati, sentiamo i titoli del TG1. L'accordo sul debito USA non convince i mercati, male tutte le borse europee, Milano perde il 4%. Crisi, mercoledì il Premier in Parlamento, le opposizioni, nostra vittoria, il PDL mostrino responsabilità sul modello degli Stati Uniti. Orrore a Lampedusa, muoiono 25 immigrati, superstiti, li hanno chiusi nella stiva, gettano in mare chi si è ribellato. Queste dunque le notizie della giornata, almeno quelli che erano i titoli del TG1. Anche su questo vi chiediamo di intervenire ancora per una mezz'oretta qua alla Zanzara, 800 24 00 24. Abbiamo avuto un paio di ospiti, uno in fila all'altro, allora recuperiamo qualche ascoltatore. Elvis da Bari, buonasera. Buonasera radioascoltatori di Radio 24. Allora, io volevo intervenire sul tema del giorno, che è un po' questa, appunto, la proposta del campus da parte di Calderoli. Mi sembra che la parola che è stata più utilizzata durante la trasmissione sia butad, dico il vero? È stata usata, sì, anch'io a dir la verità l'ho usata, ma insomma sì, è stata usata anche da molti ascoltatori commentavano questo. Lei si allinea? Lancio agli ascoltatori un po' la butade di un ragazzo di 24 anni, quasi 25, quindi la butade del giovane Nico, ovvero già che ci siamo caricati di una finanziaria da 70 miliardi di euro circa, io penso che larga parte dei cittadini italiani approverebbe di caricarsi altri 2, 3, 4, forse anche 5 miliardi di euro per attuare un programma che con l'elargizione di una buonuscita, una qualsiasi formula che possiamo strutturare attraverso, che so, un referendum, si mandi a casa buona parte della classe politica, diciamo un episodio di democrazia. Sì, vabbè, ma lei fa il furbo, perché questa che lei dice è una provocazione, ma neanche, perché che proposta è? Cioè una buona uscita per la classe politica? Sì, nel senso che noi non è che con disonore vogliamo dire andatevene a casa e pigliatevi pure i soldi. Diciamo, proprio con uno sguardo umano, ci avete provato per 30 anni, adesso saremmo ben contenti, purché voi tanto state lì che avete dimostrato buona volontà, volete lavorare anche d'estate, ma andate in vacanza una volta per tutte, se c'è da caricarci delle spese ce le carichiamo comunque noi, anzi capiamo. Cioè dice meglio senza governo e senza Parlamento, proprio facciamo prima, piuttosto che... almeno una fascia, sì, vabbè, il 15%, facciamo un referendum, una cosa tipo un gratta e vinci con cui si sceglie il politico che va a casa, non so come fare, proponiamo agli ascoltatori di proporre una manovra da attuare per... Mi sembra un po' così, francamente mi sembra un po' qualunquista la sua posizione, cioè va bene tutto, però insomma tutti a casa e poi chi governa? Non tutti, no, io non non dico sì. Ah, lei è per il... diciamo, non viene una parola pulita, ma per il mandarli a quel paese selettivamente, però? Selettivamente, infatti chiedo appunto agli ascoltatori di elaborare magari assieme a noi, o comunque così è una cavolata alla fine, diciamo, sì. Però di un sistema per cui invece di eleggere chi va al Parlamento, eleggiamo chi se ne va dal Parlamento per sempre. Ah, vabbè, questa è una specie di grande fratello della politica. Grazie, grazie, grazie anche a lei. E titoli della 7. Pessima giornata per le borse europee e la peggiore ancora una volta a Milano, che tocca i minimi dal 2009. Ondata di vendite a Piazza Affari, che a fine giornata perde praticamente il 4%. I titoli bancari fanno anche peggio. Nuovo record del differenziale tra BTP e Bund, che tocca i 355 punti. Costerà alle casse dello Stato circa 3 miliardi di euro. Sulla crisi economica, ore cruciali per la politica. Mercoledì Berlusconi riferirà prima alla Camera e poi al Senato. Quindi giovedì il Premier incontrerà sindacati, Confindustria e altre parti sociali. Sfuma l'ipotesi di un tavolo unico con le opposizioni. E il centro-sinistra e il terzo polo, dopo aver chiesto e ottenuto l'intervento in aula del Premier, ora puntano alle dimissioni del governo, pur consapevoli dei rischi in piena crisi economica di una crisi politica. Contatti telefonici del leader del PD Bersani con gli esponenti delle parti sociali. Sulla scia dei mercati europei anche Wall Street vira in negativo, avendone peraltro condizionato la discesa. Nonostante l'accordo in extremis tra democratici e repubblicani sul tetto del debito statunitense per evitare il default, previsti tagli e risparmi di 2.100 miliardi di dollari in 10 anni, atteso in serata il voto decisivo del Congresso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le dichiarazioni di Tremonti, che aveva detto di sentirsi spiato e pedinato. Il Ministro dell'Economia sarà ascoltato nei prossimi giorni dai magistrati. Nell'inchiesta sulle tangenti a Sesto San Giovanni, i PM di Monza stanno decifrando un ingegnoso sistema fatto di codici che identificano i destinatari delle mazzette. Su un barcone con 271 persone a bordo, soccorso al largo di Lampedusa, trovati nella stiva i cadaveri di 25 migranti morti per asfissia. A Bari, vicino a un centro di accoglienza, vere e proprie scene di guerriglia urbana tra polizia e migrati, in attesa da settimane dello status di rifugiati. Bloccate strade e ferrovie, una quarantina di feriti. Nonostante l'inizio del Ramadan, il mese del digiuno islamico, non si ferma il massacro delle forze di sicurezza siriane, che hanno sparato anche oggi nelle vie di Hama, caposaldo della rivolta contro il regime di Assad. Sarebbero oltre 300 le vittime, secondo alcune organizzazioni non governative. Nuove sanzioni in vista per Damasco, convocato nelle prossime ore il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Volare. Volare, che pena volare su e giù dall'Italia a Bruxelles, a Strasburgo, anche se dove c'è il Parlamento europeo, non ci sono mai posti sugli aerei, non ci sono voli diretti, tocca fare sosta a Parigi, che fatica. Volare è un disastro tra l'Italia e Strasburgo. È così che l'onorevole europarlamentare De Mita ai nostri microfoni ha risposto, diciamo così, alla suo basso tasso di partecipazione alle sedute di Strasburgo. Ma sentiamo. I mezzi di trasporto dall'Italia a Strasburgo sono di una difficoltà rara. Normalmente bisogna prendere due voli, c'è un solo volo diretto da Roma che rientra il mercoledì, parte il lunedì e rientra il mercoledì, e la seduta, che poi diventa oggetto di statistica, si chiude il giovedì a mezzogiorno. E io salto, perché se mi fermassi fino a mezzogiorno sarei costretto per rientrare a fare un giro per Parigi e poi arrivare a Roma, e quasi c'entra la mia età. Questo non comporta una riduzione dell'impegno, quindi non lo capisco, non siamo militari, abbiamo l'intelligenza per partecipare. Alla sua età, ma insomma, De Mita, però sinceramente, ma chi gliel'ha fatto fare ad andare all'Europarlamento alla sua età? Avete sentito? Per non fare sosta a Parigi, al ritorno, l'europarlamentare si va via il giorno prima e quindi praticamente diserta un terzo, metà circa delle sedute dell'Europarlamento. Peccato, perché insomma sarebbe il suo lavoro. Va bene. Volare, che pena, eh? Dall'Italia a Strasburgo. E poi chissà se non c'è, ma davvero. De Mita, domani magari lo risentiamo, facciamo così un controllo su tutte le compagnie aeree. Non c'è una compagnia aerea che fa il volo diretto, no. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. E va bene, arrivano consigli anche sulle compagnie aeree dalla regia, ce ne sono low cost, ce ne sono, De Mita, basta cercarle. 20 e 11 minuti, 800 24 00 24, riprendiamo con qualche ascoltatore. Vittorio da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Senta, volevo fare un intervento sulle dichiarazioni del ministro Calderoli. Insomma, sempre le solite buttate, 3 anni non hanno fatto nulla. Adesso vogliono fare il campus estivo per rimediare alla situazione economica, ma non le sembra un po' come lo scolaro che tutto l'anno scolastico non ha fatto niente, poi c'è quest'estate recupero e rifaccio gli esami a ottobre? Oddio, il paragone non è male, anche se nel caso dello scolaro funziona, perché uno che è andato male a scuola ma e poi recupera. Ma se proprio lo scolare si impegna, perché insomma altrimenti i risultati saranno sempre negativi. Oh, voglio dire, ma che credibilità diamo ai mercati finanziari con questa gente che secondo me è incapace e inadatta ad avere questi compiti di governo? Ecco, volevo solo dire questo. Grazie. Tutto il resto si vedrà. Grazie a lei, buonasera. Tutto il resto si vedrà, questo non è male. Dario da Monza, buonasera, benvenuto. Buonasera, io volevo semplicemente intervenire anch'io sull'incontro estivo dei ministri. Io penso e ho paura che da quell'incontro purtroppo uscirà fuori la solita tassa, cioè la famosa tassa patrimoniale che ormai tutti noi aspettiamo, perché credo che non si possa aspettare il 2014 per andare in pareggio di bilancio in quanto nessuno ci presta più dei soldi da quello che si vede sui mercati internazionali. Purtroppo la nostra classe politica è assolutamente incapace da destra a sinistra di diminuire il costo dello Stato, senza contare poi che non hanno neanche troppa fantasia o non capisco il momento. Un Pisapia che aumenta l'addizionale IRPEF ai redditi sopra i 33.000 euro dovrebbe spiegare ai cittadini di Milano quanti artigiani o commercianti o liberi professionisti dichiarano 33.000 euro nella sua città. E poi comunque sappiamo tutti che non è più il caso di andare a toccare i redditi da lavoro dipendente. Quindi questa è la chiara dimostrazione che non esiste nessun tipo di vergogna da parte di questi signori. Come ne usciremo? Io ho una grande paura, nel senso che non si vedono all'orizzonte dei personaggi o delle forme di forze politiche che possano tirarci fuori da questo pantano. Grillo stesso, voglio dire, è un'antipolitica che poi si risolve che quando due di Grillo vengono eletti in un consiglio comunale litigano su chi deve fare il capogruppo, e questo la dice lunga. Tutto qua. Grazie. Grazie anche a lei. 2014 abbiamo Germano che chiama dalla provincia di Venezia. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto volevo dire al nostro caro De Mita e anche al ministro Rotondi, che visto l'altra volta che non sono riuscito a parlare, che se non ci stanno dentro con le spese, non guadagnano, che cambiano lavoro, vanno a lavorare. Io credo che gli italiani ormai ne abbiano le scatole piene. Io sono un ex elettore di destra, convinto, ma non voto più da 2 anni e non voterò più. Allora, io credo che il tampone si debba fare da ieri, non da oggi o domani. Allora, credo una piccola pillola, un segnale, visto che abbiamo molti parlamentari a tutti i livelli che sono assenteisti, perché hanno 2 incarichi, 3 incarichi, hanno di tutto, che al di sotto del 70% delle presenze a casa. Semplicemente un parametro fisso per tutti quanti. Credo che politicamente fa delle scelte di chi può rimanere e chi se ne deve andare via sia difficile. però questo potrebbe essere un È vero che è una regola questa qua che vale per tutti i posti di lavoro, ammesso esatto, che il Parlamento possa essere considerato un posto di lavoro come un altro, esatto. Io credo tutto sommato di sì, la sua è una proposta non pellegrina, sì. Mi sento delegato? Di una piccola azienda, sì. E ultimamente ci siamo trovati, purtroppo, ahimè, costretti a fare delle scelte. E si fanno delle scelte. Allora bisogna iniziare tutti quanti a fare delle scelte. Perché è ora di finirla. È ora di finire, basta parole. Gli italiani ormai, l'italiano è un popolo bello, ha fatto di tutto. Basta avere il piatto di minestra sul piatto, parla, parla, ma non combina niente. Però la storia insegna. Insegna la prima guerra mondiale, insegna la guerra d'Africa, insegna la guerra di Russia, insegna la resistenza. E quando gli italiani si sono trovati costretti a combattere, si sono comunque fatti valere. Veramente adesso però ci riporti all'attualità, perché io credo che italiani è un popolo bello, quindi la nostra classe politica da ieri deve tagliare quello che da anni tutti promettono. Allora prendiamo un parametro, 70% di assenze si va a casa. Va bene, grazie, questo è il concetto chiaro, mi sembra interessante. Traffico, rientriamo tra un attimo. 824 0024, ancora un spicchio di serata per intervenire al numero verde. Cristian da Roma, buonasera. Sì, buonasera, volevo fare intanto i complimenti per la conduzione, nulla da invidiare a quella che c'è stata fino alla settimana scorsa. E io avevo chiamato per intervenire su Ciriego De Mita, credo che quello l'80-90% degli italiani, coloro che non sono coinvolti nella politica, volevano comunque potergli rispondere. Però ho sentito anche Mazzocchi che non... Il questore della Camera, sì. Mamma mia, anche lui non è che scherzasse, direi quasi di metterlo a livello di De Mita, cioè negare spesso anche l'evidenza. Sì, oddio, la verità, io non avendo sotto mano delle cifre precise, non è un tema di cui mi sia mai occupato direttamente, era anche un po' difficile poi contrastare cifra su cifra, punto su punto. Io ho messo di fronte a più che altro a un'evidenza, come dice lei, che non sembra proprio quella del fatto che insomma i parlamentari italiani siano i meno pagati, come diceva lui in Europa, e a sentire queste chiacchiere questi discorsi viene, come dice lei, un po' da mettersi le mani nei capelli. Però magari può darsi che avesse pure ragione su alcuni punti, non lo so, perché ma i numeri possono anche essere giusti, probabilmente. È chiaro che io vado a guardare il netto, non vado a guardare il lordo, e quindi vado a paragonare quello, come ha fatto lei giustamente, ma soprattutto io, se fossi amministratore di un'azienda, guardo anche i risultati. Se un impiegato che mi guadagna un netto così alto non mi produce, visto che di leggi non hanno intenzione di legiferarne ultimamente, se non sulla giustizia, sinceramente non se li meritano. C'è anche da valutare questo. Poi il numero degli impiegati, sono 900 tra Camera e Senato, lui ha nominato 635, ma quelli sono soltanto i deputati, i senatori se li ha dimenticati. Quindi insomma 900 contro, non so, in Germania credo, se non sbaglio, non superino i 350 complessivamente. Sì, va bene, grazie. Andiamo a Giorgio che chiama da Verona, buonasera, eccomi qua. Anche io volevo esprimere due o tre concetti sui punti di questa sera, a partire da De Mita. Intanto mi fa piacere che sia ancora vivo, non credevo. Comunque, al di là di questo, c'è una cosa che è molto chiara e fisiologica, che una persona dopo una certa età o con l'andare dell'età diminuisce nelle sue capacità intellettive, fisiche, quello che si vuole. Mi vedo io a 40 anni che sul mercato del lavoro mi trovo con i ragazzi da 20 che praticamente ti danno la biada, perché sono più svegli, più attivi e più efficaci. Mi chiedo perché ci sono persone di 80 e passa anni ancora lì che amministrano. Che amministrano che cosa? Ma a parte lui, c'è anche ad esempio, non so, la Rita Levi, se non sbaglio, è ancora lì? Anche altri personaggi tipo Andreotti, quando c'era, se c'è ancora, se è morto, non lo so, ormai non li conto più. Cosa sono lì che fanno? Cioè dovrebbero preoccuparsi della prossima vita, non della nostra. E questo è un discorso. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Annunciato due o tre argomenti, sì. Sì. Dopo, altra cosa, Calderoli, va bene, lì non c'è niente da dire, nel senso che hanno fatto 3 anni a pensare alle prostitute, adesso dopo si sono svegliati in 15 giorni, hanno fatto una finanziaria che era meglio che non approvassero, adesso speriamo che in altri 15 giorni non facciano qualcosa d'altro. Io mi auguro che stiano a casa, che vadano in vacanza, che dopo ci pensino con calma, però ho paura che saranno in grado di fare qualche disastro anche lì, per cui secondo me è l'ennesimo ascoltatore che teme più l'attivismo dei politici che non assolutamente in questo momento sì. Dopo, un'altra cosa che per me è il punto fondamentale è questo. Allora, abbiamo fatto una finanziaria per il pareggio di bilancio, no? Che in teoria entro il 2014 ci porta il pareggio, non so se sono corretto con i termini, ok. Io sono convinto di una cosa e mi gioco il mio stipendio, che entro giugno dell'anno prossimo, per dire un anno, quella finanziaria lì verrà per forza ritoccata e ne verrà fatta un'altra, perché tutta la situazione della borsa che c'è attualmente non dipende assolutamente, secondo me, dal discorso Stati Uniti piuttosto che Europa, o che c'è una situazione intrinseca all'Italia, al di là della situazione internazionale, che ci sta portando sul baratro. Noi faremo, parere mio, e mi tocco per primo, faremo la fine della Grecia, perché siamo in mano a una classe che non sta facendo niente e quando fa qualcosa di sbagliato. Ecco, dopo, sì, grazie, tocchiamoci però davvero, perché sì, non è auspicabile, sì, questo. È vero che qualcuno ha calcolato quanto già questi differenziali di spread, questi differenziali di rendimento col Bund tedesco, gli spread, siano già costati tanto da vanificare una parte forse della manovra finanziaria già piuttosto imponente che il governo aveva posto. E questo, tutto sommato, è un argomento che insomma andrebbe valutato. Chi sentiamo? Antonella da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, io volevo tornare sull'argomento che ha aperto la vostra trasmissione. A quello che ha detto quel politico, mi sembra che si chiami Berselli. Filippo Berselli è onorevole del PDL, sì. Dunque, a proposito della commemorazione di Bologna di domani, da quello che ha detto, dunque, è venuto fuori in pratica che la commemorazione dovrebbe essere a carico dei parenti delle vittime. Perché no, lui ha detto che l'organizzano loro, diciamo, come iniziativa, e questo credo che sia un fatto. Poi ha fatto una proposta di sostituire quella celebrazione civile con una messa a San Petronio. Sì. Oh, non ho niente contro la messa, anzi penso che ogni anno sarà stata celebrata la messa, perché tutto sommato stiamo parlando di defunti. La cosa che mi ha impressionato è questo modo di ragionare, per cui in pratica un fatto che è stato contro lo Stato, perché l'attentato alla stazione di Bologna non è stato fatto contro le singole vittime, è stato fatto per destabilizzare lo Stato. Quindi è un fatto politico rilevantissimo, e ridurlo a una commemorazione fatta da privati, oppure lasciare sulle spalle del vescovo, del cardinale che sarà che dirà la messa, l'onere della commemorazione, per sottrarsi. Devo dire che sono d'accordo con lei sostanzialmente su questo aspetto, perché questo non l'ho detto a Berselli, politico, ma è vero, sì. Se un politico non capisce questo, vuol dire che non ha il senso dello Stato. Non sa di che cosa parla, insomma. Sì, io credo che molti politici del centrodestra che hanno partecipato, come anche lo stesso Berselli in passato, alle commemorazioni, credono in quello che dice lei. Adesso però si è creata una specie di frattura, di incomprensione. Un politico deve avere anche il coraggio di fare il suo mestiere. Sì. Io non dico che Berselli deve andare lì a farsi bersagliare dai fischi, ma un rappresentante di questo governo oggi, anche se non è il governo che era in carica quando è successo, ovviamente, deve essere lì presente proprio a rappresentare lo Stato nella forma più alta e più solenne, perché lì sono state massacrate persone che non avevano nessuna colpa, assolutamente innocenti, e sono state massacrate solo per il fatto di essere lì, di essere cittadini italiani, di essere un bersaglio qualsiasi di forze eversive che volevano appunto destabilizzare lo Stato. È stato fatto contro la nostra Repubblica, lì qualcuno della nostra Repubblica ci deve essere. Grazie Antonio dalla provincia di Arezzo, buonasera, benvenuto. Buonasera, auguri per la trasmissione a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Prego. Volevo fare soltanto una premessa e sentire un vostro parere. Mi associo a quel signore che ha parlato prima, che ha se detto... Se riesce ad abbassare la radio o a spegnerla, sì, parlando al telefono è meglio, grazie. Che esistono ancora questi signori parlamentari che hanno un'età e che occupano ancora le proprie sedie. Io dico, questi signori perché non se ne vanno in pensione, perché non se ne vanno in un manicomio, perché non se ne vanno in un posto dove li possono contenere, perché questi signori qua ci hanno portato alla distruzione. Il signore di prima ha detto che faremo la fine della Grecia, ma non dimentichiamo neanche il Brasile. Argentina forse diceva. Argentina. Sì. Io di professione faccio il camionista, se faccio un'ora di più di guida, mi fanno i verbali che non finiscono mai, gente sì. Che magari non sono aggiornata a queste cose qua. Questa gente qui si lamenta che prende 5.000 euro tipo il questore, 4.700, 4.800 euro al mese. Io ci sono mesi, io sono un padroncino, io sono mesi che non porto lo stipendio a casa e mi vergogno di andare a casa. E questa gente che prende questi soldi ha ancora il coraggio di parlare e di lamentarsi che portano pochi soldi a casa. Allora io dico, speriamo che il popolo italiano si svegli e non crede più alle favole della sinistra, della destra, del centro e delle stronzate varie che dicono in giro. Qui sono un branco di ladri, i nostri politici sono tutti ladri, senza esclusione di nessuno, perché chi non sta al potere, se vado io al potere e faccio questo, se vado io... Non è vero, non ci dobbiamo credere, ci dobbiamo svegliarci da sto sonno profondo che abbiamo. Va bene, mi sembra chiaro quello che devo dire, l'ho fatta parlare perché è uno sfogo e poi siamo in chiusura soprattutto della trasmissione, è tutto direi per questa sera. No, non siamo ancora in chiusura, abbiamo ancora il tempo per una telefonata, avevo visto male. E allora sentiamolo, l'ultima chiamata per questa sera, Armando dalla provincia di Cuneo, buonasera. Buonasera. Prego. Intanto mi permetto di fare i complimenti per la sobrietà della conduzione. Perché qualche volta rientrando a casa mi capita di sentire la zanzara. A volte abbassi la radio però, oltre a fare i complimenti, così la sentiamo meglio. Sì, sì. Però a 40 secondi, per dire quello che volevo dire. Sì, no, sono velocissimo. Cioè, mi spiace, ma dovrei ripetermi rispetto a certi interventi. Certo che c'è da essere indignato con interventi alla De Mita, ahimè. Non so cosa aggiungere altro, però è sufficiente averlo sentito, ahimè. Vabbè, allora fermiamoci qua, così come l'ha detto bene, veloce, sintetico, è dal suo punto di vista. Grazie a lei, grazie a tutti per questa sera. La Zanzara torna domani dopo il GR delle 18. Buona serata a tutti. Sono contento che abbiano eletto a Strasburgo De Mita. Io devo dire, finalmente, ragazzi, ma era tanto che non sentivo più parlare di De Mita. Ma guarda, sono due cose che gli italiani non sentivano più nominare da tanti anni: i gettoni del telefono e De Mita. Se alle prossime europee leggono anche i gettoni del telefono, posso morire contento. Radio 24. La passione si sente.